Buongiorno, oggi iniziamo il quarto capitolo della Mishnah di Pesachim, un capitolo dove vedremo citate tante diverse usanze, partendo chiaramente di qualcosa che riguarda Pesach, ma da questo poi arriveremo a molti altri discorsi. Come introduzione a questo capitolo bisogna tenere presente che in generale la vigilia delle festività, cioè dei Moadim, e la vigilia dei giorni di Shabbat, tutti i venerdì, esiste un concetto che è vietato fare lavoro, Melachah, è vietato lavorare, dalla Mincha in su, per dare il tempo di preparazione per lo Shabbat e il Moed che sia. Esiste però, riguardo alla vigilia di Pesach, un'ulteriore rigidità in questa cosa, che è più rigorosa, in quanto il divieto di fare melachah, di lavorare la vigilia, non è dalla mincha in su, come nelle altre occasioni, bensì è anticipato questo divieto all'orario alachico del Chatzot Hayom, cioè il mezzogiorno alachico. Per quale motivo? Perché già dal... due motivi. La prima cosa è che già dal Chatzot Hayom sarebbe possibile iniziare a preparare e a fare il Korban Pesach, di conseguenza non è visto bene che il Korban Pesach si fa, la persona, il suo Korban viene sacrificato e lui sta al negozio, sta lavorando, non è considerato rispettoso, ma anche quando non c'è il Korban Pesach comunque vige questo divieto, in quanto c'è molto più da fare la vigilia di Pesach rispetto alla vigilia di altre festività e Shabbatot normali, in quanto c'è tutta la preparazione tutti i preparativi del Seder. La nostra Mishnah insegna che esiste il divieto di fare Melachah, di lavorare dalla Chatzot, dal mezzogiorno in su, ma esistono dei luoghi in cui si usa non lavorare già dalla mattina, cioè tutto il giorno. Il divieto vero e proprio che i Chachamim hanno vietato di lavorare è dal Chatzot. Ma, oltre al divieto, ci sono dei luoghi in cui esiste il Minhag, cioè l'usanza, l'uso, che non si lavora già dalla mattina. In generale, quando c'è un Minhag di un luogo, le persone del luogo sono tenute a rispettare quel Minhag. Cioè la regola è che bisogna rispettare il Minhag, anche se non è una regola, è un'usanza, diventa come se fosse una regola. Ma vale per chi è residente, non come uno che si allora, proprio per questo la Mishnah parla. Cosa è il din, qual è la halakha, quando una persona va da un luogo all'altro rispetto alla osservanza del Minhag. Posso fare? Sì. Un passo solo indietro. Sì. Da Mincha non si può, ma da quando uno decide, la può dire di quelle tre alternative di Mincha o dal primo orario di Mincha? Dall'orario base di Mincha, non da quando lui fa Mincha. Dal primo orario. Dall'orario utile. Base, che non è la Mincha Gedolah. No, posto, dal primo utile. Esatto. Non la prima utile, che è la Mincha Gedolah. Dalla Mincha vuol dire dalle 9 ore. Ah, da quello più presto. Da quello più tardi. Ah, quindi proprio l'ultimo. Da quello più tardi. Oddio, una via di mezzo, cioè 3 ore. Una via di mezzo, sì. Una via di mezzo. Perché poi c'è quella di mezzo. Esatto. E la domanda che la nostra Mishnah si pone è cosa succede appunto quando uno va da un luogo all'altro. Allora, adesso vediamo il testo della Mishnah. Makom shenahagu, un luogo in cui usano, nahagu dalla parola minhag, in cui usano la asot melacha, di lavorare be'arvei Pesachim nella vigilia di Pesach ad Chatzot, ovvero non hanno l'usanza di anticipare il divieto, invece loro lavorano anche fino a Chatzot, solo da Chatzot in poi, quando c'è il divieto vero e proprio, smettono di lavorare. Allora in quel luogo è permesso, osin, è permesso lavorare. Al contrario, makom shenahagu shelo la'asot, il luogo in cui si usa non fare la melachah, la vigilia di Pesach, anche prima di Chatzot, perché hanno fatto questa cosa? Perché su cosa si basa questa usanza? Perché anche la mattina di Pesach ci sono cose da fare legate a Pesach, perché una persona non si dimentichi di bruciare il proprio chametz, preparare il korban Pesach, preparare la matzah della mitzvah, che in moltissimi casi la matzah della sera del seder la si cuoceva il giorno stesso della vigilia, ok? Quando ancora si faceva la matzah dentro casa. Ma anche oggi, in determinate situazioni dove c'è questa possibilità, è bene e si usa chi ha la possibilità di fare la vigilia di Pesach. Quindi, comunque ci sono tante cose anche la mattina di cui occuparsi. Quindi in alcuni luoghi, occuparsi di tutte le cose del seder, eccetera, in alcuni luoghi si usa anticipare il divieto, cioè l'usanza è più grande del divieto. Allora in quei luoghi, en osin, in quei luoghi vige come se fosse un divieto, che non si può fare melachah anche prima di Chatzot. Perché la Mishnah dice questo? È chiaro che devi fare secondo l'usanza del luogo, se sei del luogo. Per dire che da Chatzot in poi è proprio vietato per la regola. La differenza del luogo all'altro è solo prima di Chatzot. Ma da Chatzot in poi è vietato per il din, per la regola. I Chachamim l'hanno vietato. Ora, affrontiamo il caso di chi si sposta da un luogo all'altro. Haholech mimakom sheosin. Colui che viaggia, che va da un luogo in cui si fa, cioè si lavora prima di Chatzot. Lemakom sheenosin. Ad un luogo in cui non si fa prima di Chatzot, non si lavora, oppure, mimkom she'enosin, oppure una persona abita in un luogo in cui non si lavora prima di Chatzot, e va a fare Pesach in un luogo in cui si lavora prima di Chatzot, limkom she'osin, o mimkom she'enosin, limkom she'osin, da un posto in cui non si fa il lavoro, a un posto in cui si lavora, la Mishnah dice la seguente, Notnin alav, vengono imposte su di lui, chumre makom sheyatza misham, chumre vuol dire le rigorosità, chamur, rigoroso, chumra, rigorosità, chumre, le rigorosità del luogo dal quale è uscito, ve chumre makom shealach lesham, e le rigorosità del luogo al quale è arrivato, vuol dire, in entrambi i casi gli è vietato fare melachà. Se viene da un luogo in cui non si fa melachà, anche se si trova in un luogo in cui si fa melachà, per lui è vietato, perché lui viene dal luogo, lui è del posto in cui non si fa melachà prima di Chatzot. Se invece lui viene dal luogo in cui si fa melachà, ma arriva nel luogo in cui non si fa, ugualmente non lo può fare, per non essere diverso da quelli del luogo. Quindi di nuovo non fa melachà. Allora in entrambi i casi prende la parte più rigorosa. Poi la Mishnah aggiunge una parola e dice una frase: Ve'al yeshane adam mipenea machloket. Traduco la frase e poi vediamo cosa significa, perché non è così chiaro. La Gemara ne parla nel trattato appunto di questo qui di Pesachim. Ve'al yeshane adam, la persona non cambi il proprio comportamento, non cambiare, le shanot, cambiare, mi peneia machloket, per via del machloket, per non entrare in discussione, machloket, discussione. Cosa significa? Cosa sta dicendo? Secondo il maestro Abaye nella Gemara, il senso qui è il seguente. Riguardo a quanto abbiamo detto, che uno che va da un luogo in cui si lavora prima di Chatzot, al luogo in cui non si lavora prima di Chatzot, non deve cambiare l'usanza da quel luogo al cui sta andando, per non entrare in Machloket. Cioè se lui lavora lì dove non si lavora diventa un Machloket, una differenza, una discussione. Allora chiaramente anche lui non lavora, anche se nel luogo suo si lavora, ma venendo nel luogo in cui non si lavora, lui non lavora, per non creare differenza, machloket, discussione, differenza. Però dall'altra parte, colui che va da un luogo in cui non si lavora, al luogo in cui si invece lavora, quindi in teoria lui non lavorando non fa nessuna differenza, perché non è che sta facendo... Nessuno si accorge di... potrebbe non aver in da fare teoria nessuno altri. Si accorge. Allora Abaye dice, prende con sé anche la rigorosità del luogo dal quale è uscito, ok? E quindi crea una differenza tra sé e gli altri che sono lì, perché loro cosa fanno? Loro lavorano, lui non lavora. Allora crea una differenza. Secondo Abaye non deve creare questa differenza. Agli Eshané. Però questo non è così chiaro con il linguaggio della Mishnah, che ha detto che comunque deve tenere la rigorosità anche del luogo dal quale è venuto. Quindi Ravà, secondo maestro della Gemara, dice no. Quello che stiamo dicendo qui nella Mishnah di non cambiare per il Machloket, per non entrare nel Machloket, cosa significa? Riguarda colui che va dal luogo in cui non si fa melacha, appunto, al luogo in cui si fa melacha, e la Mishnah ci sta dicendo che nonostante lui non fa melacha, perché il luogo suo è il luogo in cui non si fa melacha, anche se il luogo in cui si trova adesso si fa melacha, questo non è considerato un machloket, perché il fatto che lui non lavora... Ci sono tanti che non lavorano, nessuno va a vedere, fatto tutto, purtroppo c'è la disoccupazione, nessuno va a vedere per quale motivo questo non lavora o quello non lavora. Cioè il fatto di non lavorare non rientra in una machloket e di conseguenza non deve cambiare da quello che è la sua usanza. A meno che la distinzione tra quello che fa lui e quello che fanno gli altri crea machloket, allora non deve cambiare la propria usanza. Solo se non si crea una condizione di... Esattamente. Solo concludo una cosa. Tutto questo che abbiamo detto, che una persona prende con sé anche le rigorosità del luogo dal quale è partito, cioè nel suo luogo non si fa melacha, quindi sono più rigorosi. Lui va al luogo in cui si fa melacha, anche lui comunque continua a non fare melacha perché continua con le rigorosità del proprio luogo. Questo è valido solamente quando ha intenzione di tornare poi al proprio luogo. Quindi è uno spostamento, ecco, è uno spostamento temporaneo. Ma se lui si trasferisse definitivamente al luogo nuovo, allora assume le usanze di quel luogo senza portarsi dietro le rigorosità del proprio luogo originale. Certo. Dimmi. Sì, volevo chiedere, ma questo vale solo, vale pure per i lavoratori dipendenti? Che si senso? Trovano praticamente, che io mi trovo a lavorare in un altro posto, la vigilia di Pesach, per cui se il lavoratore del posto finisce praticamente dopo mezzogiorno, io che invece so... Se tu vieni dal luogo in cui non si lavora. Esatto, per cui la giornata dovrebbe essere... non ci dovresti andare praticamente... È una domanda molto interessante, diventa una domanda di etica di lavoro anche. Sì, appunto. Se tu sei un lavoratore dipendente, lavori in quel luogo, è probabile che anche abiti in quel luogo. No, fai il pendolare praticamente. Se ah, fai il pendolare proprio. Se abiti vale quello che hai detto adesso. Sì. No, dicevo, se abiti lì per lavoro, ma comunque abiti. Invece no, se fai il pendolare, è un'ottima domanda. Bisogna approfondire. Se tu fai il pendolare e si lavora in un luogo in cui la mattina di Pesach si lavora, dove per quel luogo dovresti lavorare, ma nella tua città dove vivi normalmente non si può lavorare, il minag è di non lavorare, se è permesso per te lavorare quella mattina perché sei assunto dipendente in quella città. Molto ottima domanda. Bisogna approfondire. Non ho la risposta pronta. Kazak. Hai la situazione di lavoro che stai lì, solo per il lavoro, la tua residenza in effetti è dall'altra parte, in effetti è particolare, certo. Sì, molto interessante. Allora, vediamo la seconda Mishnah. La prima Mishnah ha parlato di una differenza di usanza tra un luogo e l'altro. La seconda Mishnah anche parla non di una differenza di usanza, ma di una differenza di halakha tra un luogo e l'altro, sempre tra un luogo e l'altro e chi va da questo luogo a quello e viceversa, ma che non riguarda Pesach. E infatti varie halakhot che vedremo in questo capitolo qui, la maggioranza delle halakhot, alcune saranno legate a Pesach e la maggioranza non saranno legate a Pesach. Molte di queste partono dal concetto della usanza del luogo o del modo di fare in un certo luogo e il cambiamento di luogo tra un posto e l'altro. Di cosa parliamo adesso nella seconda Mishnah? Di nuovo il contesto non è più Pesach. Il contesto è cibarsi da frutta del settimo anno della Shevit, cioè della Shemitah, dell'anno in cui c'è l'anno sabbatico in Eretz Israel. Quando c'è l'anno sabbatico in Eretz Israel, è permesso mangiare la frutta che cresce dagli alberi o nel campo, però non nella maniera che si fa tutto l'anno. Prima di tutto questa frutta o questo prodotto ha uno status che si chiama Kedushat Shevi'it, ha una certa Kedushah, e inoltre non è di proprietà di nessuno. Tutta la frutta è proprietà di nessuno, Hefker. E quindi una persona potrebbe prendere della frutta, portarsela dentro casa, o del frumento, quello che è, e cibarsi da quello per anche durante questo anno di Shevi'it. Però c'è un vincolo che la Torah dice. La Torah dice, che questo frumento, questo prodotto della terra, deve rimanere anche disponibile alle bestie e agli animali che si trovano nei campi, che si trovano all'esterno. Ok? Behemtecha è la tua bestia, quella più addomesticata, e chaya è l'animale selvatico. I Chachamim spiegano che il senso di questo versetto è, nella Torah, che qualora il prodotto è disponibile all'aperto per l'animale selvatico, allora è permesso cibarsi da quello stesso tipo, da quella stessa tipologia di prodotto all'interno delle case e delle stalle, cioè dell'animale addomesticato e delle persone. Ma dal momento in cui un determinato tipo di cibo non è più la stagione e quindi non è più disponibile al selvatico all'aperto, allora bisogna anche eliminarlo dalla casa. Biur, come biur chametz, biur peirot shevit, l'eliminazione della frutta di shevit. È solo permesso cibarsi come se noi ci cibassimo in maniera simile agli animali selvatici. Quello che è disponibile si può mangiare, quello che non è più disponibile non si può mangiare neanche nella casa, quindi va eliminato dalla casa. Biur, anche qui si usa il termine biur. Per ciò che riguarda il biur, i Chachamim hanno suddiviso Eretz Israel in tre regioni generali, perché le stagioni sono lievemente diverse rispetto a quello che è disponibile in un determinato momento in un certo clima e quello che è disponibile in un altro momento, in un altro clima. E di conseguenza hanno suddiviso in tre regioni. Yehudà è una regione, Ever HaYarden, cioè l'altro lato del Giordano, è una seconda regione, e la terza regione è il Galil, la parte nord, la Galilea. Quindi se per esempio nella regione di Yehudà non si trova più un determinato prodotto, allora chi abita nella regione di Yehudà deve eliminare quel prodotto anche dalla casa. Ma nella Galilea quello stesso prodotto è ancora disponibile all'aperto. Di conseguenza chi abita nella Galilea può ancora cibarsi dentro casa di quel tipo di prodotto. Ecco che è stato suddiviso in questa maniera e ora possiamo capire cosa c'entra con la nostra Mishnah? Makom shenahagu, perché cambia da un luogo all'altro. Oh. Ora, qual è la situazione? Qual è il caso? Chi porta della frutta di Shevi'it da una regione ad un'altra regione? Ok? Per esempio, adesso vediamo l'esempio specifico nella Mishnah. Kayotzebo, simile a quanto abbiamo. Kayotzebo vuol dire simile. Simile a quanto abbiamo spiegato nella Mishnah precedente, la Mishnah prosegue dicendo, simile a questo, Hamolich Peirot Shevi'it, colui che porta con sé della frutta del prodotto del settimo anno. Mimakom Shekalu, dal luogo in cui sono cessati, cioè non sono più presenti quei prodotti nel campo per l'animale selvatico. E quindi io vengo da un luogo in cui devo eliminare quel prodotto dalla mia casa. Ok? Ma sto andando verso un luogo in cui ancora c'è disponibile quel prodotto. Le makom shelokalu, che ancora non sono finiti questi prodotti per gli animali all'aperto. E quindi le persone di quel luogo ancora possono cibarsi di questo dentro casa. Ok? Oppure il contrario, viceversa. O mi makom shelokalu, li makom shekalu, al contrario. Da un luogo in cui non sono ancora finiti, a un luogo in cui sono invece finiti. Quindi vengo da un luogo in cui ancora si può mangiare dentro casa, a un luogo in cui questo prodotto non si può più mangiare, bisogna eliminarlo già dalla casa. La Mishnah dice, Chayav Leva'er, è obbligato in entrambi i casi di eliminare quei frutti dalla propria proprietà. Cioè, come abbiamo visto nella Mishnah precedente, assume le rigorosità sia del luogo dal quale è venuto che dal luogo al quale va. Qual è il punto più rigoroso? È quello che assume come comportamento. Se viene dal luogo in cui bisogna eliminarlo, anche lui lo deve eliminare, nonostante nel luogo in cui è giunto ora non è ancora il momento di eliminarlo. Al contrario, se viene dal luogo in cui ancora lo si può mangiare, ma giunge nel luogo in cui non si può più e bisogna eliminarlo, deve eliminarlo come quelli di quel luogo. Questo è il din esposto dal Tanakama, dal primo maestro della Mishnah e della maggioranza dei Chachamim, però c'è Rabbi Yehuda che sembra dice un'altra cosa e bisogna approfondire per capire cosa significa quanto dice Rabbi Yehuda ora. Scusa. Sì, prima di Rabbi Yehuda, dimmi. Abbiamo visto se uno porta con sé quello che dove sta lui ancora si può mangiare e va nel posto dove lì non si può più mangiare. E questo è il caso abbiamo visto, no? Entrambi, e viceversa. Se uno... Abbiamo visto entrambi i casi. Allora mi è sfuggito quello che... Abbiamo detto che in entrambi i casi deve eliminare, prende le rigorosità del luogo in cui arriva e dal luogo in cui parte. Come abbiamo detto nella missione precedente riguardo il lavoro, la vigilia prima di Chatzot. Stesso concetto. Di nuovo, guardiamo il testo dall'inizio. Kayotzebo, simile a ciò, a quanto abbiamo detto prima. Hamolich, peirot, shevit, colui che porta prodotti, frutta di shevit, del settimo anno. Mimakom shekalu, dal luogo in cui sono finiti. Finiti nel senso non sono più disponibili all'aperto, all'animale selvatico, quindi non si possono più mangiare neanche dentro casa. E li porta dove? Limkom shelokalu, al luogo in cui ancora non sono finiti e quindi si possono ancora mangiare nella casa. Poi la Mishnah dice oppure viceversa, o mi makom shelokalu, dal luogo in cui non sono conclusi ancora e quindi si possono ancora mangiare a casa. E è andato però li makom shekalu, è andato al luogo in cui sono già finiti e lì bisogna eliminarli. In entrambi i casi chayav leva'er. In entrambi i casi è obbligato ad eliminare la propria frutta. Nel primo caso li deve eliminare perché nel suo luogo non si possono più mangiare, anche se adesso si trova in un luogo in cui no, in cui si possono. Nel secondo caso li deve eliminare perché arriva in un luogo in cui vanno eliminati, anche se nel suo ancora si mangiavano. Quindi questo vuol dire si prende la rigorosità di entrambe le situazioni, o del luogo al cui è arrivato o del luogo dal quale è giunto. Il riferimento è sempre la rigorosità che prevale. In questo caso sì. Simile a quello che abbiamo detto della Melachà alla vigilia di Pesach. Sì. Ora vediamo cosa dice Rabbi Yehuda. Mi fa piacere ripetere, ditemelo, quando così facciamo parola per parola e si segue proprio il significato di ogni parola della Mishnah, è molto importante. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda invece dice, Omrim lo, gli si dice, a questo che viaggia, Tse vehave lach af ata, esci e portane anche te. Esci dove? Porta che cosa? Cosa sta dicendo Rabbi Yehuda? La Gemara cerca di approfondire, approfondisce le parole di Rabbi Yehuda e offre diverse spiegazioni per capire cosa sta dicendo Rabbi Yehuda. Noi parleremo ora di una, forse un'altra spiegazione. La prima è quella che Rav Ashi offre nella Gemara. Prima di capire cosa sta dicendo Rabbi Yehuda, dobbiamo fare presente un caso specifico esposto dalla Mishnah, ma non in questo trattato, nel trattato proprio di Shevi'it. C'è un trattato che si chiama Shevi'it, che è quello che regola da tutte le norme dell'anno sabbatico. Allora lì c'è scritto, riguardo proprio a questa mitzvah, leva'er, di eliminare la frutta dalla casa quando è stata eliminata dalla natura all'aperto, la Mishnah dice, se il caso è che una persona mette sotto aceto, sotto sale, diversi prodotti insieme in un unico contenitore, un'unica botte, e poi succede che uno di questi prodotti viene eliminato dalla natura, quindi non si può più mangiare dentro casa, ma gli altri prodotti di questa botte sono ancora presenti nella natura. Come si deve comportare? Allora la Mishnah lì, nel trattato di Shevi'it, dice così. Ci sono varie opinioni. Rabbi Eliezer, lì nel trattato di Shevi'it, dice che ochlin al rishon, cioè si può mangiare solo finché arriva il primo che viene eliminato e da quel momento in poi non si può mangiare nulla da questa botte. Finché arriva il primo che viene eliminato dalla natura, va eliminato questo e tutta la botte va eliminata. Anche gli altri prodotti che sono presenti nella botte, anche se non sono stati ancora eliminati dalla natura, si parte dal primo. Finché il primo arriva, questa diventa la scadenza anche di tutti gli altri. Questa è l'opinione di Rabbi Eliezer. Invece, quello che spesso discute con Rabbi Eliezer, cioè Rabbi Yehoshua, Rabbi Yehoshua dice, no, afalacharon, possiamo andare secondo l'ultima delle specie che sono presenti in questa botte. Cioè, finché una delle specie presenti nella botte è ancora presente in natura, li possiamo mangiare tutti. Anche quelli che nel frattempo, sono cessati di essere presenti in natura. Quindi se ho cetrioli, patate e cipolle, tutte nella stessa botte, i cetrioli sono già finiti dalla natura, le patate sono già finite dalla natura, ma le cipolle ancora ci stanno, posso mangiare anche i cetrioli e le patate che sono in questa botte finché non finiscono anche le cipolle. Perché? Questo secondo Rabbi Yehoshua. Lo spiega perché. Aspetta. Ognuno ha la sua motivazione. Il primo viene invece che dice Rabbi Eliezer. Il secondo è Rabbi Yehoshua, e adesso c'è la terza opinione, un attimo. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel, in questo caso rappresenta un po' una via di mezzo, e lui dice, Kol shekale mino min hasadeh yevaer mino min hachavit. Ogni specie specifica che viene eliminato dalla natura, viene eliminato dalla botte. Sono finiti i cetrioli nel campo? Elimina solo i cetrioli dalla botte. Il resto puoi mangiare. E così vai man mano. Cioè non è né estremo come il primo che ha detto no, parti dal primo, né l'altro estremo come Rabbi Yehoshua che ha detto no, vai avanti fino all'ultimo. Se no vai in base a come se fossero in botti diverse. Man mano. Man mano. Ora, se vogliamo approfondire la motivazione di questi tre Chachamim, vediamo quella Mishnah, che nel capitolo 9 del trattato di Shevi'it, come dicevamo. Quello del terzo chi era? Rabban Gamliel. Gamliel. Il Talmud Yerushalmi spiega qual è la motivazione della discussione tra innanzitutto i primi due, Rabbi Eliezer e Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer è dell'opinione che si deve considerare il fatto che qui c'è uno scambio di sapore. L'elemento che ormai è vietato perché non c'è più in natura ha dato sapore anche all'elemento permesso. Perché sono sotto sale o sono sotto aceto o in salamoia, c'è contaminazione. Stanno nella stessa salamoia, per dire. Allora di conseguenza diventano anche quelli vietati per la contaminazione presa da quel elemento che è unico elemento che al momento è già vietato di per sé. Rabbi Yoshua invece dice, guardiamo il contrario, l'ultimo contamina il primo. Di conseguenza, quindi, visto che l'ultimo, quello che ancora non ha cessato, che ancora non è arrivato il suo ultimo momento nella natura, visto che contamina anche lui le altre specie, possiamo considerare quelle contaminate da queste, in questo senso salvarle dall'essere eliminate. Tenerle come legate fino sì, alla scadenza dell'ultimo. Sì, perché c'è il sapore, applicando lo stesso concetto, il sapore è assorbito dalle prime, la stessa logica al contrario. La stessa logica al contrario, sì. Esatto. Rabban Gamliel dice, qui non si applica la contaminazione. Dove esiste il concetto di contaminazione, per esempio, nella Kasherut? Se un elemento non kasher entra in un insieme di elementi kasher, allora bisogna vedere se c'è, in alcuni casi noi vediamo se è presente una contaminazione per ciò che riguarda il sapore. Se non c'è la contaminazione, possiamo dire allora l'elemento è permesso. Ma qui, dice Rabban Gamliel, non c'entra niente il concetto di contaminazione. Qui è il frutto stesso, una questione di che la Torah lega alla presenza del frutto in natura e non alla presenza del sapore. Allora, di conseguenza, si discute su questa halakha e la halakha segue l'opinione di Rabban Gamliel. Ok? Bene. Ora, torniamo alla nostra Mishnah. La nostra Mishnah ha detto... Rabbi Yehuda dice, vai a portare del tuo. Che abbiamo cercato di capire cosa significa questo, giusto? Oh, allora, i maestri della Gemara, in questo caso Rav Ashi, spiega che Rabbi Yehuda sta facendo riferimento a questo caso qui di cui abbiamo parlato nel trattato di Shevi'it. Ok? E dice che la nostra Mishnah, prima che Rabbi Yehuda parlasse, cioè la Mishnah del Tana Kama, il primo Tana della Mishnah, è dell'opinione come Rabbi Yoshua, sarebbe dello stesso opinione come Rabbi Yoshua, cioè che andiamo secondo l'ultima specie, che possiamo mangiare tutto ciò che è presente nella botte finché non è l'ultima specie ad essere, ad esistere la presenza in natura. Perché? Infatti lui ha detto, Hamolich mi makom shelo kalu le makom shekalu. Se uno va da un luogo in cui non sono finiti, al luogo in cui quella specie è finita, ma finita totalmente, allora chayav lever, allora deve eliminare dalla sua casa. Ma se non sono conclusi tutti, solo una parte, cioè se lui ha messo sotto un'unica botte varie specie e non sono tutte concluse, solo una parte sono concluse, allora lì non abbiamo detto che deve eliminare. Può mangiare anche quelle specie che sono cessate dal luogo in cui arriva, anche se, appunto, anche se sono cessate in quel luogo, visto che solo una parte sono cessate e sono insieme nella stessa botte, è permesso ancora mangiarle. Come ha detto Rabbi Yoshua, si va secondo l'ultimo. Guardiamo la contaminazione di quello permesso ancora, non di quello vietato. Ora viene Rabbi Yehuda e dice, discute con questo. Rabbi Yehuda sarebbe dell'opinione come Rabban Gamliel, che bisogna andare secondo ogni specie, quello che viene eliminato dalla casa. Anche se sono mischiati insieme, bisogna separarli. Infatti per questo dice, Tseve avele chafata, vedi se puoi uscire e trovare quel frutto o quel prodotto. Se lo puoi trovare, allora lo puoi mangiare. Ma se non lo puoi trovare, quel frutto specifico, anche se è mischiato con uno che lo puoi trovare, non lo puoi più mangiare. Hai una botte con tre specie, vieni da un luogo in cui sono presenti tutte e tre queste specie, però arrivi in un luogo in cui non tutte e tre sono presenti. Magari uno già non è più presente. Vai al campo, vedi quello che puoi portare, c'è, esci, vedi cosa puoi portare. Quello che non puoi più portare dal fuori, dalla natura, devi eliminare dalla tua botte. Questa è quella frasetta alla fine. Vai a vedere quello che puoi trovare. Ok? Questa è una delle opinioni che spiega quanto ha detto Rabbi Yehuda. Un'altra opinione uno dei commentatori, il Meiri, un grande maestro, dice: che Rabbi Uda in realtà vuole essere meno rigoroso. Noi abbiamo spiegato adesso Rabbi Uda che è più rigoroso, che dice no, non puoi andare secondo l'ultimo frutto, come diceva Rabbi Yoshua nella Mishnah e secondo questa spiegazione la nostra Mishnah anche. Lui è più rigoroso, lui dice no, ogni frutto che è eliminato, eliminalo dalla botte. Secondo questa seconda spiegazione che adesso vedremo, lui è in realtà più alleggerisce, è meno rigoroso. Cosa dice? Dice così. Lui è dell'opinione che non si dà sempre in questo caso la rigorosità sia del luogo dal quale viene che del luogo al quale giunge. Secondo lui, se lui viene da un posto che la frutta non è ancora conclusa e quella stessa specie invece nel posto in cui arriva è già conclusa, non gli si dice non lo puoi più mangiare, perché lui potrebbe dire vai anche te all'altra regione e la trovi quella frutta nel campo. Seve avelecha afata, esci e portati pure te quell'altra frutta. È comunque presente da qualche parte, lui alleggerisce. Quindi, se hai portato la tua frutta dal luogo in cui non sono cessati, scusami, dal luogo del contrario, se lui ha portato la propria frutta dal luogo in cui è già cessato nel campo e al contrario arriva nel posto in cui c'è ancora, anche lì dice, beh, qui la frutta c'è ancora, la posso mangiare. Quindi secondo Rabbi Yehuda la discussione è che la prima opinione della Mishnah dice che gli si danno le rigorosità di entrambi i luoghi, mentre secondo Rabbi Yehuda gli si dà l'alleggerimento di entrambi i luoghi. Questo secondo il Meiri. E quindi può essere vista in almeno due maniere questa opinione di Rabbi Yehuda. Noi concludiamo con queste due. Certo.